Tu qui, cantuzza, qui t'aspettavo. E fa, qua inquieta non vai. Non può. Devo parlarti. Mamma cercavo. Devo parlarti. Qui no, qui no. Dove sei stato? Che vuoi tu dire a Francoponte? Santuzza, credimi, Santuzza, credimi. Mentire, ti vidi volgere giù dal sentier. E stamattina all'alba sennò la pestella salivana. Ah, mi hai spiato. Perché mi dici di me? acqua salutosa. Va, ti ripeto. Devi cacciare la tua fame. Va, bene, tirati in mano la parametra. La tua fame, la tua fame, la tua fame. Come cacciarla? Quanti fuori? Oh!